Oggi diamo inizio alle trasmissioni di questa nuova radio. Di cosa parleremo qui? Semplice. Di tutto di più, ma in particolare di musica, e dei ricordi legati alla musica. Rimanete sintonizzati.